Alla reception. Salve. Lorenzo, thank you for the flowers. Ma è un piacere. And sorry I'm late. In ritardo? Perché? Che ora è? Le 9:10? Oh, non importa. Solo 10 minuti. Non è niente. Allora, ha fame? Are you hungry? Oh, yes. Where are we eating? Mangiamo in albergo. Che le dice? Il ristorante qui è buonissimo. Wonderful. Bene, andiamo. Prendiamo l'ascensore. La sala da pranzo è all'ultimo piano. Va bene. Andiamo.